la risposta della teologa tibetana che mi dice, io dico, ma scusi, quanti sono i Buddha? Lei mi guarda, dice, ma noi non possiamo saperlo, perché? Ma noi dovremmo sapere, per esempio, quanto dura e quando comincia il tempo, per sapere quanti possono essere. Ma questo, ma lei si allime, poi forse un Buddha lo sa, o può rispondere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se io passo qui mi viene in mente un sapore che da bambina solamente mi rapiva, come se fosse il cibo degli dèi, mi dicevano i miei. Ma dov'è la mortadella di Bologna? Ma dov'è? Dai, dai, dai, un salto, un altro e poi. Voglio salutare il pubblico e voglio dire, io sarò sempre con voi. Vediamola se vuoi, ma dov'è? Tranquillità, serenità. Eccola, la mortadella in mano è tornata di nuovo, questa volta fuori Montecitorio, non dentro Montecitorio, quindi è già più accettabile. Volevo solo far vedere, c'era un signore, se riesce a inquadrarlo, guarda, è lì che c'è la mortadella in mano, quel signore lì. Poi magari qualcuno ci dice, non dovete fare neanche tanta pubblicità, però noi facciamo i cronisti, facciamo vedere quello che c'è. Prodi vattene, Prodi vattene. Ecco, Prodi vattene e mangia la mortadella. Prodi Bologna, ma dov'è? Dai, dai, dai, un altro salto e poi. Dai, dai, dai. Beppe, il PD dice scheda bianca, ritorna l'ipotesi Prodi. Ti droghi, dimmi la verità. Ma dov'è la mortadella di Bologna? Ho parlato 5 minuti fa col professor Rodotà, che è il nostro candidato per essere il presidente. Rodotà era anche infastidito che si sparga la voce che lui potrebbe abdicare a Pro. Nessuno del Movimento 5 Stelle si è mai sognato di votare Prodi come presidente della Repubblica. E non se lo sognerà neanche in futuro, che sia ben chiaro. Il nostro presidente della Repubblica è il signor professor Rodotà, andasse come andasse. Passo qui mi viene in mente un sapore che da bambina solamente mi rapiva, come se fosse il cibo degli dèi, mi dicevano i miei. Anna Maria Cancellieri. Sì. Anna Maria Cancellieri. Prodi. Romano Prodi, Rodotà, Romano Prodi, Stefano Rodotà. Cos'è che diceva Berlusconi al comizio di Bari, Parenzo? Te lo ricordi? Cos'è che diceva? Al comizio di Bari? Sì, al comizio di Bari, ma dove diavolo sei che non si sente un cazzo? Dove sei? Dove sei? Non si sente, non si sente, dove diavolo sei? Non si sente, c'è l'elezione del Presidente della Repubblica oggi, forse... Non si sente niente, sembri catacombato. Cosa diceva? Comprò di tutti all'estero. Bene, vedo che siete molto reattivi, magari un po' ruvidi, ma assolutamente assennati. Avete ragione, comprò di presidente ci converrebbe andare tutti all'estero. Allora, il PD non partecipa al voto, come sapete. Brunetta dice i soliti comunisti. Sentite. Dai, dai, mangiamola anche noi. La sinistra e il Partito Democratico si sono presi il Presidente della Camera, il Presidente del Senato. Oggi si vogliono prendere il Presidente della Repubblica per prendersi domani anche il governo. Ci hanno pensato un attimo a distruggere l'immagine, la figura di un galantuomo come Marini. E sono sempre i soliti, vorrei dire i soliti comunisti. Ma finirà come nel 2006. Ma le hai viste quelle due senatrici del PDL con la maglietta Il diavolo veste Prodi, Parenzo, sì o no? Eri impegnato nel bunker di non so dove, dove sei adesso? Però una cosa, sono a casa mia, una roba scandalosa quello. Vabbè, ma è inutile, va, vai a vai a quel paese, ma non mi fare dire parolacce perché questa sera divento una belva, non si sente nulla. Fosse il cibo degli dei. Mussolini, andiamo con la Mussolini, su, con la maglietta Il diavolo veste Prodi. Gliel'ho fatta vedere a Berlusconi nella riunione che abbiamo avuto. Sono andata sopra in aula, sono andata a salutare Grasso, la Boldrini è impazzita quando mi ha visto soprattutto dietro Il diavolo veste Prodi. Oh, questa è una vergogna che si mette questa maglietta. No, la vergogna è quello che state facendo voi. Dice la richiamo all'ordine. E che mi richiama? Io sono senatrice. Un sapore che da bambina solamente mi rapiva come se fosse il cibo degli dèi, mi dicevano i miei. Che ha trovato l'idea migliore per riuscire a mettersi un po' più leggera in una giornata obiettivamente calda da ogni punto di vista. Molto pesante. Brava, è riuscita. Mentana, si mette anche lei la maglietta Il diavolo veste Prodi, che gli starebbe bene. E beh, tanto è dietro, non si leggerebbe. Magari ce l'ho già. Grazie Mussolini, grazie Vicari. Metta la mia che è davanti, si mette la mia che è davanti. Giuliano Ferrara prospetta l'inferno nel caso in cui oggi o domani naturalmente fosse eletto Prodi. Berlusconi farà l'inferno. Però dico, anch'io come Renzi, come Bondi, come Berlusconi, come tutti, come Manfellotto e pure la Meli che è una irriverente, la foto di Prodi dietro la testina, perché stasera è Presidente della Repubblica. Il problema è Berlusconi che la fa, perché Berlusconi non è come noi che si mette la foto dietro la testina, è capace che scatena l'inferno. Ma su questo non c'è dubbio alcuno. L'inferno! Su questo non c'è elezioni e vuole fare le elezioni per dire Prodi al Quirinale, ma avete messo? Ma avete strappato le unghie come si fa con i carcerati prima della tortura? Volete uccidermi, fare di alzare l'orecchio? Io ho 9 milioni di voti, un partito unito di i sondaggi che vanno bene e ecco. L'ha detto, fa bene, ecco. Allora io e qui nasce e qui il nasce. Senso. Allora mi per piace cui... perché c'è una spaccatura più a terra. Intanto Prodi questa sera probabilmente non ce la farà, lo dico chiaro e tondo, sto seguendo lo spoglio. Secondo alcune stime potrebbe raggiungere addirittura meno di 440 voti, 440-450, 440-450, perché già ci sono delle defezioni intorno ai 25 di PD o SEL che non avrebbero votato Prodi, siamo già a quota 25 e ancora c'è tempo. Forse il cibo degli dèi, mi dicevano i miei. Calma, tranquillità, serenità. Se io passo qui mi viene in mente un sapore che da bambina sola. Ma ve lo ricordate quello che mangiò la mortadella quando Prodi cadde al Senato? Beh, chissà cosa ne pensa oggi dell'elezione di Prodi, forse, a Presidente della Repubblica. Nino Strano, buonasera. Una buona serata a voi, come state? Tutto bene? Dalla Sicilia, l'ex senatore Nino Strano che dalla Sicilia. Come sta? Ma insomma, tiriamo, ho avuto un piede ingessato. Vabbè, per insomma, un mese e mezzo, ma nulla di grave, una rottura del perone, ma oggi... Anche una rottura di scatole, come dire? Sì, anche. Scusi un attimo, ma oggi ritorna quella foto della mortadella, ma lei si vergogna di quella foto, senatore Strano? Beh, speriamo che non la pubblichiate, voi non siete giornali. No, noi non siamo giornali. Perché ogni volta è un pugno nello stomaco, lo dico addirittura con chiarezza, sì, perché un gesto. Cioè, si sente male, si sente. Lo dico subito, guardi, è un gesto che non rifarei e del quale, sì. Le sembrerà forse strano, no. Con una lettera chiesi scusa al professore, sì. Il quale gentilmente, e da qui il mio giudizio sul professore è molto cambiato ed è positivo. Cioè lei dice adesso che lei che fu uno di quelli che votò contro Prodi, mangiò la mortadella, beve lo champagne in Senato, dice sarebbe un buon Presidente della Repubblica, lo voterei. Guardi, le dico subito innanzitutto Mao. Che quel gesto non fu organizzato da me, primo, così mettiamo in chiaro una cosa. Vabbè, quello va bene, d'accordo. No, no, mi fa... Vabbè, ho capito, però lei poi mangiò la mortadella e beve pure lo champagne. Sì, va bene, ma non lo dica più. Secondo, lo feci in un momento di esaltazione esasperata, che oggi non rifarei, e fu organizzato da altri. Io mi trovai coinvolto e chissà perché tutti gli occhi caddero su di me. Ma quanta mortadella mangiò, signor Ma no, una sciocchezza, non un pezzetto, mi interessava molto. Mezzo etto, molto. Mezzo etto. Non lo so, guardi, una fetta. Era un gesto dimostrativo, ma stupido, del quale ripeto al professore chiesi scusa e lui mi rispose il 1 marzo 2012 con una sua lettera molto... E cosa c'era in questa lettera? Cosa c'era scritto? Accettò le scuse? Sì, assolutamente. Cioè, ricambiò di cuore i miei auguri. Dunque lei lo voterebbe come presidente? Pensa che Ma sarebbe... Guardi, le dico che è una persona con una grandissima caratura internazionale. Sì. Non è un caso che sia rispettato in tutti i consessi internazionali. Ed è veramente quel gesto che fece nei miei confronti in risposta alla lettera mi fece capire anche che è dotato anche di una grande... Vabbè, lei poi è passato dal PDL a FLI eccetera eccetera, però strano, scusi... No, è dotato di una grande sensibilità, cosa che... Cioè, lo voterebbe o no? Sarebbe un buon presidente adesso? Sì. Ma secondo sarebbe me un grande presidente, addirittura. Non esageriamo con le aggettivizzazioni, però potrebbe esserlo. Poi sa, tutto ciò che sembra... Ma lo voterebbe se fosse al Senato? O andare in positivo. Vabbè, fosse al Senato oggi lo voterebbe? Non dimentichiamo che Napolitano, sul quale vengono tanti pregiudizi. Poi diventò un grande presidente, certo. Diventò Scusi, oggi se fosse al Senato lo voterebbe, sì? Ma le dico, probabilmente sì, potrei anche votarlo. Traffico, sì. Torniamo subito. La Zanzara. Tranquillità, serenità. Beh, calma, tranquillità, serenità, ma si sta mettendo male, Si sta mettendo male per il tuo amico Prodi, Parenzo. Dove leggeranno domani? Si sta mettendo male, confessa che vuoi Prodi, confessalo. Io vorrei Prodi dalla Presidenza della Repubblica, ma per me dovrà rifare ancora il Presidente del Consiglio, perché è stato pensate, grande. Non ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Scommetto 50 euro che ce la farà. Vediamo, domani. Perché se va sotto, ci sono per adesso ci sono una ventina di voti, una trentina di voti dispersi, alcuni hanno votato D'Alema, se va sotto i 450, 460 non so se lo ripresentano domani. Guarda, per la gioia del tuo amico camionista di Bari, per il quale è partita già una querela di diffamazione aggravata, firma avvocato. Però senti che ci dice Prodi, a sorpresa. Io non ho alcun futuro politico. Ah, ecco. Io non sono un politico, io non ho un passato politico. Non stare lì così, mettiti comodo. Hai capito? Mettere un clima di concordia. Tutta questa zanzara che fa tanta confusione ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Il direttore Tombolini della radio ha già detto che ci vuole uno statista guida. Franco Marini potrebbe venire a condurre la trasmissione, da tornare a fare un cazzo. No, ma scusi Prodi, però come Franco Marini? Cioè lei l'ha appena... Con calma. Oppure con calma, c'è un'altra candidatura, il signor Vittorio Prodi, che è lì in Europa, sì, mio fratello, ma è pacato, non urla, non usa quel linguaggio turpe che si usa sempre quel signor Cruciani, che dice sempre ascoltatori, lo dice con violenza. Vabbè, ho capito, però siamo qui. Siamo qui con Nino Strano, grazie professore, dal Mali. Professor Nino Strano, anzi no, non è il professore, ex senatore, quello che si mise in bocca la mortadella quando fecero fuori Prodi da presidente del Consiglio l'ultima volta. Adesso si è pentito. Che è successo, Strano? Con chi sta a parlare? Strano! Lo famo Strano! Vabbè, non c'è più. Se n'è andato. La gente scompare. Una cosa pazzesca. Danilo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, dottor Cruciani, volevo fare solo un appunto al suo collega. Se ricordo bene si chiama Panunzio. A proposito di Giovanni Leone ieri. Sì. Quanto. Ma chi è questo collega? Chi? Quando? Come? Panunzio, perché? Ma dove? Ma non esiste uno che si chiama Panunzio, dove? Il suo collega giornalista. Ma di che cosa? Parenzo, non Panunzio, Parenzo. Parenzo, Panunzio. Chiedo scusa. No, no, Panunzio, lei dice, vabbè, comunque. Chiedo scusa, io me la memoria un po' labile. A proposito di Giovanni Leone, volevo dire una cosa, che Giovanni Leone venne calunniato al suo tempo dalla Cederna e dai Vaticani. Vabbè, allora? La Cederna era stato un eccellente presidente. Ma chi se ne frega? Perché lei ricorda questo episodio? Non me ne frega nulla, qui stanno eleggendo il Presidente della Repubblica nel 2013, non Leone negli anni 70. Ma perché Parenzo ha ridicolizzato Leone? Ma che ha ridicolizzato Leone? Ma che gliene frega di Leone? Dino da Torino, vabbè Danino, non mi interessa di Leone, Dino da Torino, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo solo dire che sono scandalizzato dal voto di scheda bianca che le forze politiche. Perché? Qual è il problema? Ma è l'elezione del Presidente della Repubblica, non si sceglie via web il Presidente della Repubblica, non c'è il click. Sto parlando della scheda bianca. Ma la scheda bianca è la scheda bianca. Perché loro lavorino, perché indichino qualcuno, la scheda bianca è sinonimo di un qualunquismo. Comunque si va verso ma che qualunquismo? È una tecnica parlamentare che esiste, su, non diciamo stupidaggini. Dino, la gente non si scandalizza per le schede bianche, la gente si scandalizza perché dopo 60 giorni io non mi scandalizzo, la gente però si scandalizza perché non c'è un governo dopo 60 giorni, non c'è manco il Presidente della Repubblica. Prodi si avvia questa sera a fare una figura di palta. Prodi, cioè chi l'ha proposto in realtà, perché in questo momento ci sono 40, in questo momento 40 tra altri e bianche, tra cui D'Alema, la cancellieri ha preso più voti di quelli che sono i deputati e i senatori di scelta civica, figuraccia colossale. Andiamo, dove andiamo? Da nessuna parte? Da nessuna parte? Che c'è? Strano? Non c'è strano? Che dobbiamo fare? Però anche nel 92 fu complicato eleggere Scalfaro. Sì, ma ho capito, ma non è più la stessa cosa, non è più lo stesso metodo, cioè non è più la stessa cosa. Cioè, è chiaro che un quadro politico così disastrato produce fumata nera per Prodi, è ufficiale sostanzialmente, fumata nera, ormai hanno fatto i calcoli e tutti. Di sentirla in buona salute, ok? Ma con chi sta parlando, strano? Strano. Strano. Pronto? Ma non è possibile. Strano, ma con chi stava? Donno al telefono con un amico mio che mi chiamava. Amico suo omosessuale? No. Però strano, scusi, ma se lei ha il telefono con la zanzara. Se lei ha il telefono con la zanzara. Stava facendo gli affari suoi con un altro. Stava facendo gli affari suoi al signor Strano, su, è sempre. Lei è pagato per partecipare alla sua trasmissione, È pagato pure caro, tra l'altro. Vabbè, comunque, lettera di scuse a Prodi, tanto Prodi non ce l'ha fatta, caro. Per ora. Non ce l'ha fatta. Le ripeto, allora, questo gesto Ma è finita la votazione o no? Prego? Sì, forse comunque è finita, mi pare, Ah, è finita? Quasi finita. Sotto la soglia di 400. Ma è una cosa pazzesca, 395 voti, se è finita 395. Una cosa pazzesca. È una scopola durissima soprattutto. Questa è Mentana che commenta, Prodi 395, si ritiri, ma di che stiamo parlando? Voti in più di quelli del Movimento 5 Stelle, la cancellieri. Rodotà è stato votato anche da quelli del PD, hanno fatto fuori pure Prodi, questa è la sostanza, capito strano? Non c'è... l'ho capito, almeno per oggi, perché domani... Ma domani non lo ripresentano, su, cioè se è 395 che ripresentano, su, non lo possono presentare con 395. Dai. In effetti è vero. Non lo possono presentare. Però le ripeto, quest'uomo mi ha fatto una grande sensazione di persona per bene quando mi scrisse questa lettera il 1 marzo. Sì. Tra l'altro una lettera scritta a mano, in risposta alla mia scritta a mano, perché le persone per bene educate scrivono a mano anche molto lentamente, anche molto certo, anche molto lentamente, con lentezza. Una bella lettera, una bella carta con grande lentezza, calma, tranquillità, serenità. Io non ho alcun futuro politico. Ah, ecco. Io non sono un politico, io non ho un passato politico. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Io non ho alcun futuro politico. Ah, ecco. Io non sono un politico, io non ho un passato politico. Gira sempre intorno a me e balli su. Beh, il futuro politico adesso mi sembra molto molto incerto, del signor Romano Prodi. Sentiamo Gennaro Migliore, intervistato dalla 7, capogruppo di SEL, che dice di avere segnato tutte le schede con R. Prodi, dunque i voti 100 in meno di quelli potenziali. non sono quelli di Sinistra Ecologia e Libertà. Sono, secondo me, dei gruppi che si sono contati e non meritava anche ovviamente la candidatura, che rimane la candidatura per noi anche più significativa dal punto di vista dell'identikit, come ho avuto modo di dire più volte in questa stessa trasmissione, non meritava anche questa di essere sottoposta ad una sorta di ritorsione da parte brutalmente di bruciato Prodi elettori. Secondo lei chi sono queste? Guardi, adesso c'è bisogno di riflettere. Eh beh, io certo, penso c'è sempre bisogno di riflettere. Intanto Bersani ha riunito tutti i big, grande casino. Il Partito Democratico, che ha non so quanti deputati di maggioranza grazie al Porcellum, non riesce a presentare una figura in grado, di eleggere il, di diventare presidente della Repubblica. Vi rendete conto o no? Titoli del TG3, ma che c'è da riflettere? Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Nulla di fatto anche nella quarta votazione. Prodi non ce la fa a raggiungere il quorum. PDL e Lega decidono di non partecipare al voto. Il cambio di strategia del PD in mattinata col voto unanime dell'Assemblea dei Grandi Elettori. In campo il fondatore dell'Ulivo. Grillo, nessuno tra i 5 Stelle si sogna di votare Prodi, Crimi e Lombardi al PD, votato Rodotà e si apriranno nuove prospettive. L'ira di Berlusconi, i patti sono stati violati, metodo antidemocratico, sarà lotta dura, il PDL protesta davanti a Montecitorio. Scelta Civica vota per cancellieri, ma non è contro Prodi, dice Monti, discussione aperta nel partito che non esclude in futuro un sostegno al professore. Due fratelli di origine cecena, i presunti attentatori di Boston, uno ucciso in una sparatoria, l'altro in fuga, gigantesca caccia all'uomo, città blindata. Rimborsi alla regione Piemonte, tra i 52 indagati anche un consigliere di 5 Stelle, il governatore Cota che dice ho chiarito tutto. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Calma, tranquillità, serenità. Sono un presidente della Repubblica, non sono un primo ministro, non ho culturalmente le facoltà, non parlo le lingue, ho i miei limiti, ho 65 anni, ho le sinapsi che si aprono un po' e poi si chiudono, rimangono chiuse, sto cominciando a invecchiare, io voglio vedere queste persone dentro, non gli... C'è un mondo che ha già tutto e di te non ha bisogno. C'erano corazzieri di due mesi, corazzieri così, mentre passando mi dicevano siamo tutti con lei. Sono in grado. Adesso dobbiamo riflettere, io mi ricordo, sto sentendo ancora, mi risuona nelle orecchie questa frase, adesso dobbiamo riflettere. Ma che c'è da riflettere di fronte a un fallimento così clamoroso? 395 voti per il fondatore dell'Ulivo, uno dei creatori in realtà anche del Partito Democratico, Prodi, 100 voti in meno, l'hanno impallinato. Siamo qui, Attilio da Monza, buonasera Attilio. Allora, volevo dire una cosa, innanzitutto mi sono quasi masturbato pensando alla faccia di Parenzo con questa grossa sconfitta. Secondo, volevo dire proprio a Parenzo... Cioè lei si può masturbato sì, seriamente? Sì, sono sotto la pioggia, sono fermo in macchina e sono fisicamente... Cioè anche lei sta godendo per la sconfitta del Mortadella, no, insomma. Ho già goduto, mi sono... Ma come mai chiama sta gente? Ma perché? Che male c'è, scusa? No, non ma io volevo dire... No, è una grande disfida, è una grande disfida, è l'ok Corral qua, caro Parenzo, è l'ok... Prodi è stato sconfitto, il tuo amico Prodi è stato sconfitto, distrutto. Stai calmo. Ma che stai calmo, 395 voti? Che stai calmo cosa? Calma, tranquillità. Sì, va bene, professore, ho capito, però lei sta in Mali, doveva tornare, forse l'aereo sta facendo una piccola inversione a U. Che dice? Una piccola inversione a U. Calma, no? Tranquillità, serenità. Vabbè, ho capito. Attilio, dica. Sì, Parenzo, un'altra cosa vuol dire Parenzo, ma dato che lui è il proclamatore della libertà, essendo così comunista, sfegatato e fazioso, ma per quale motivo se qualcuno è contro di lui, lei sempre minaccia a querelarlo? Ma non si vergogna? Ma faccia come Cruciani che si fa dire di tutto, addirittura Sgarbi ha mandato a fanculo sua madre, lei basta che vanno fuori le lingue, mi pago il tetto, ma non si vergogna? Che giornalista è lei? Ma non si vergogna di minacciare quella... Allora che trasmissione io devo chiamare, aver paura che sbaglio il termine nel suo riguardo? Lei mi può insultare tranquillamente, lei deve sapere che quando... Mi pari. Lei deve sapere, caro il mio amico qui, se lei alza troppo l'asticella, si becca una bellissima querela per diffamazione, 300.000 euro. Fine. Certo, ma questo qua è la democrazia dei comunisti. Ma non è democrazia. Se lei mi dice che sono un cretino, va bene. Se lei mi dice che sono un coglione, va bene. Se mi alza l'asticella, qual è la 300.000 euro? E qual è l'asticella? Lo dice all'inizio della trasmissione, quella l'asticella. Lo decido, beh, è ovvio che decido io qual è l'asticella dell'insulto. Ma lo dica prima, se no che dialogo c'è? Lo dica prima, no, quella lei, l'asticella. Guardi, la faccio felice. Le assicuro che se lei mi dà solo del coglione, non la querelo. Provi, vediamo. Solo, se mi dà solo del coglione non me la querelo? No, provi, non provi. Capita. No, provi. Ma voglio fare un'altra cosa, dato che praticamente è inutile. No, provi, vada. No, ho paura, mi scusi, ma ho veramente paura. Cruciani, vi dico una cosa, ma siccome lei ha preso un giornalista, scusi, un suo collaboratore così... Vabbè, allora? Allora? Mi mette un altro giornalista di destra così fazioso, così strettamente fazioso, così a me ne pari, perché veramente è venitevole a dirlo. Vabbè, Dino dalla provincia di Trento, buonasera Dino. Buonasera, Dica. Rino mi chiamo, Rino. Rino, sì, Rino provincia di Trento. Io, allora. Io sinceramente parlo per stare su Parenzo, anche su di lei Cruciani, li tengo per me perché perdiamo tempo. In che senso, scusi, non ho capito. Me ne frega niente di come la pensa Parenzo, Io rispetto lei perché la vedo molto spontanea come sono io. Sì. Parenzo, vabbè, per me è un provocatore, ma è una persona molto intelligente. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque pare che Renzi abbia dichiarato la candidatura di Prodi non c'è più, sembra. La candidatura Prodi non c'è più. Candidatura Prodi non c'è più. Io ho il sospetto che Renzi abbia candidato Prodi e stia mandando tutto a schifio per dimostrare l'inadeguatezza totale di Bersani, perché forse anche i suoi deputati che avevano promesso il voto a Renzi a Prodi non l'hanno votato. Vabbè, il gioco è chiaro che è questo. Beh, ho capito, però se non l'hanno votato sarebbe clamoroso, Cioè, prima l'hanno proposto e poi non l'hanno, votato. Lo dicono i numeri stessi, dicono i numeri. Ma no, ma può darsi che siano persone che invece vogliono un accordo con 5 Stelle per Rodotà presidente, non lo so, cioè... Attenzione però, attenzione, collegamento, siamo riusciti? Sì, mi sembra che siamo riusciti, no? Aspetta un attimo la linea. Collegamento, professore? Buonasera. Come ha preso, professore, questa che noi abbiamo definito, professor Prodi, in collegamento dal Mali, che abbiamo definito una botta, cioè uno schiaffo in faccia, 395, 100 voti in meno? Chi è che l'ha impallinata, professore? Scusi se uso questo termine. Una botta mi sembra eccessivo, ma insomma, quando si parte dal punto più basso, poi si può solo risalire. Ora, io... sto qui, cosa devo fare? Ho visto, non è andata bene, abbiamo la notte di fronte, sì. Bisognerà ragionare tutti insieme per fare una grande proposta per domattina. Beh, scusi però professore, mi permetto di dire che ho votato tutti quanti quelli che hanno detto che mi votavano, qualcuno che non mi ha votato. Beh no, 100 in meno, professore, cioè, le faccio notare, lo so che lei in Mali, magari le comunicazioni sono un po' così, però 100... Sì, non mi sfugge che, diciamo, non abbiamo fatto via una bella figura, no. Però è anche vero, è vero, che ero candidato del PD, cosa vi aspettate da questo? Cioè, meglio di così non si poteva francamente andare. Ah, mi sembra che lei stia dunque criticando in maniera molto dura il partito che ha anche creato. No, guardi, siamo chiari subito, sì. Il PD è il partito di Marini, insomma è stato il PD. Come di Marini? Sì. Marini è il fondatore del PD, sì. E infatti è andato meglio. Io sono un esterno. Scusi professore, ma lei torna... Mi sembra, guardate che mi hanno votato quasi 400 grandi elettori. Beh, ho capito. Ora, se ci fosse la volontà di andare avanti con calma, con serietà, con serenità, allora questa notte si farebbe una grande assemblea dell'Ulivo e domattina ci si presenta belli, freschi e si fa un'altra bella figuraccia. Si fa un'altra bella figuraccia, questo è proprio. Vuoi chiedere qualcosa dal Mali, se magari torna in Italia, Parenzo? Vuoi chiedere qualcosa al professore? Voglio capire dal professor Prodi che abbiamo la fortuna di avere il collegamento, se alla sì. fine non si sente tradito anche da questo Renzi, che lei piaceva all'inizio, signor Renzi. Che pare che alcuni voti sono venuti anche dai renziani di questi 100. Secondo, da chi è stato tradito, professore? Insomma, da Lemiani, renziani, gente che vuole votare? Sono stato tradito da Berlusconi, che aveva votato. Abbiate pazienza, i dati parlano chiaro. Chi è che non si è presentato? Sono mancati i voti. Non hanno votato quelli Berlusconi, della Lega, quegli altri. Ah, io dico, ma è mai possibile che se uno si presenta al Quirinale, fargli fare una figura di questo genere? E poi, in più, sì. ci sarebbe anche da dire, poi andremo a vedere sì. con tutti gli altri, chi sì. sia stato, chi non è stato, non lo so, sono mancati anche dei voti di quelli che dovranno votare per me. Ah beh, questo non c'è dubbio. Professore, scusi, altre due cose, no? Com'è che fa? Professore, scusi, no. Caro mio Cruciani, voi siete lì al calduccio, qui so. Nel Mali non sa cosa succede. Cioè, sono 50 lì gradi? Succede anche di peggio, lì succede anche di peggio. No, non c'è dubbio, ma lei torna indietro oppure ha deciso di rimanere in Mali? Cioè, voglio dire, ritira la sua candidatura oppure rimane ancora in piedi per domani, professore? Guardi, io rimarrei ancora in piedi, visto che comunque la prima volta è andata bene. Beh, ma come bene, certo. E poi, che cosa vuoi che le dica? Sa, io ero qui, mi hanno detto, ti candidiamo, ti candidiamo, sì. ci ho pensato sì. almeno due ore. Beh. E poi alla fine gli ho detto di sì, mi hanno chiamato tutti quanti, mi sì. hanno detto vai, Romano, sei il nostro uomo. Quando ti dicono che sei il loro uomo, poi mica tirarti indietro, ragazzi. Allora, se mi dico ancora domattina che sono il loro uomo, io vado e faccio. Va. Però quindi, resta in Mali, non torna. Dobbiamo chiudere questo. Ma anche se mi reggono, resto qua. Anche se. Grazie professore, grazie al professor Prodi, grazie. Stia bene professore, tanto mi sa che è difficile che lei possa diventare presidente, così mi scusi se gliela tiro, però è pubblicità. Calma, tranquillità, serenità. La Zanzara. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Siamo qui nel giorno del grande disastro del Partito Democratico. Vendola dice: se salta Prodi ritorna la candidatura di Rodotà. Prendere la Pravda c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. Ed effettivamente Rodotà ha preso più voti rispetto a quelli che ci si poteva attendere. Rodotà era stato proposto ancora una volta da 5 Stelle, ha preso più voti, perché i 5 Stelle erano 162 e ha preso invece credo più di 200 voti. Matteo da Padova, buonasera, 800 24 00 24. Sì, buonasera. Sì. Io non volevo entrare tanto nel merito dell'elezione del Presidente della Repubblica. Comunque il PD è spaccato sicuramente tra chi adesso vuole proporre Rodotà e chi vuole fare scendere in campo D'Alema, su questo non ci sono dubbi. Rodotà sarebbe come consegnarsi a Grillo, voi vi rendete conto o no? Vi rendete conto o no? Matteo da Padova. Io volevo fare semplicemente un'osservazione, quasi una denuncia. È da un po' che ascolto il vostro programma. Sì. Faccia la sua denuncia. Siete molto, molto, molto di parte. Più che di parte siete contro un partito, un movimento. Sì, e chi sarebbe? Che è l'unico movimento sì. che al giorno d'oggi ci permette un attimo. Scusi, noi saremmo, a parte che non siamo contro nessuno. Sperare. A parte che non siamo contro nessuno. Non lo direi da tutte le vostre osservazioni. Voi siete. Ma contro chi siamo? Movimento sì, contro il Movimento 5 Stelle? Beh, mi sembra proprio di sì. Ma lei fuori di testa. Lui l'ha votato, signor Cruciani. A parte che io l'ho votato, ma comunque, insomma, in ogni caso, Matteo, non siamo contro nessuno, certamente non siamo contro 5 Stelle, semplicemente pensiamo, diciamo quello che pensiamo, abbiamo la mente libera, non abbiamo guru, non abbiamo persone sì, certo. che ci comandano, non abbiamo punti di riferimento. Navighiamo in mare aperto, ha capito? L'onestà intellettuale. Beh, è vero, Dottà è buonissimo, ad esempio. Sì, ma per te sono buoni tutti, basta che. No. Io tifo per la Cancellieri, in questo momento faccio tifo per la signora Cancellieri, che oggi ha preso più voti di quelli che era lecito attendersi, perché erano 69 di Scelta Civica. A me piace, non dispiacerebbe l'idea della signora Cancellieri. Io penso che in questo punto Rodotà. Ma tu fai una previsione o un auspicio? No, questa è sia una previsione che spesso i desiderata sono. Vabbè, anche. Allora Matteo, che vuole? Previsioni. No, niente, volevo soltanto far emergere questo, che sicuramente chi ascolta se ne rende già conto, ma fare sottolineare, denunciare questo. Sì, denunciare cosa? Ma cosa vuole denunciare? Non trovo giusto che venga gettato fango, sì, come fate voi, nei confronti fango, del Movimento 5 fango, Stelle. Fango, molto fango. Siete anche un servizio nei confronti, sì, servizio, degli, sì, di chi vi ascolta. Ah, quello non c'è è dubbio. È giusto che fate emergere la, sì, l'attualità, cioè ciò che... Sì. Sì, ma questa non è, questa non è, ma questa non è Rai Education, ma questo non è Rai Educational, capito? Ecco. Cioè non è tribuna elettorale, tribuna politica, e non gettiamo fango su nessuno. Francesco da Milano, buonasera. Francesco, mi sente? Sì, sono qui. Dica. Ma io penso che il problema sia tecnicamente questo: c'è stata, sì, una proposta fantastica, che è quella di a un certo punto, dopo due mesi di inseguimento, un grillo che dice ti metto sul piatto d'argento il tuo candidato del tuo partito, una persona seria, e tu, di tutta risposta, Bersani, quando dico tu ovviamente, sì, Bersani, mi dici ecco qui la mia risposta, ti propongo un democristiano rispettabilissimo e tutto quello che vuoi, però ti stai praticamente suicidando. Ma perché ti stai suicidando? Il signor Marini era un è in realtà mica morto, uno dei fondatori del Partito Democratico. Si cercava un accordo con Berlusconi, il partito ha detto di no. Dopodiché la cosa incredibile è che ieri per acclamazione, questa mattina per acclamazione, tutti i grandi elettori del Partito Democratico hanno detto sì a Prodi. 100, probabilmente gli stessi che stamattina applaudivano, erano lì a dire sì, sì, Prodi, Prodi, in 100 l'hanno bocciato, 100. Professor Cacciari? Sì. Buonasera. Buonasera. Come va? Bene. Senta, ma che è successo? L'implosione finale del Partito Democratico? Ma non so di che cosa ci si stupisca. Purtroppo da parecchio tempo le persone così che osservano in modo disincantato sì, la situazione politica sanno che questo partito non è un partito, non è mai nato, non ha mai avuto un congresso degno di questo nome, non ha mai avuto una leadership duratura. Ma Bersani è possibile che non è riuscito a proporre un Presidente della Repubblica accettato dal suo stesso partito? Ma poverino, che colpa c'ha adesso? Bersani ci può ma tirargli addosso la croce su questa questione qui? Cosa doveva fare? Cioè, voglio dire, sì, poteva anche ascoltarli prima, poteva anche verificare prima, ma una proposta doveva pure farla, no? Però scusi, Cacciari, questa... non ha un partito dietro, non c'è il partito, cioè cosa c'entra? Ma è inadeguato pure il manico, no? Ma quello che vuole, ma inadeguato il gruppo dirigente complessivamente di questo partito, un partito che non è mai nato, un partito che non... Ma la cosa che a me scandalizza, tra virgolette, sì, non è tanto questo, è quando li sento alla televisione questi leader o pseudo leader, sì, sì, che non accennano a nessun discorso critico, nessun discorso che rifletta minimamente, mi sembrano irreali, non riflettono minimamente sulle ragioni di questa, di questa clamorosa debacle, clamorosa, perché Marini ci poteva anche capirlo, Prodi sì, adesso è incredibile, ma che votino Rodotà e la facciano finita. Però scusi, professore, lei so che vuole da qualche giorno dice che bisogna votare Rodotà presidente, però le faccio presente che sarebbe uno smacco ancora maggiore, perché il candidato in sostanza di Grillo, che Grillo... Ma scusi un momento, cerchiamo di fare un discorso logico come quello che non sono in grado di fare gli attuali dirigenti del Partito sì, Democratico. Loro hanno cominciato dopo una campagna elettorale allo sbando, una volta a destra, una volta a sinistra, eccetera, eccetera, e lasciamo perdere, hanno perso 10-12 punti in due mesi, e hanno cominciato dicendo vogliamo fare il governo di rinnovamento con Grillo, e sono andati a caccia dei voti di Grillo, sì, io no? Sì, bene, sì, a caccia dei voti di Grillo, bene. A questo punto hanno cambiato completamente scenario, hanno detto no, basta con Grillo, dobbiamo andare in cerca dei voti di Berlusconi. Vabbè, per il Presidente palese, della Repubblica, scusi, sì. No, aspetta, quando è palese che i voti di Berlusconi li hai con un accordo che naturalmente doveva esserci anche per quanto riguarda la formazione del governo, palese. Bene, quindi cambiando linea, eccetera, eccetera. Adesso Grillo ti dice, ti presenta una persona come Rodotà che appartiene in toto alla storia di questo partito, in sì. toto, fin dall'inizio. È uno dei, è stato remote, presidente del PDS, sì. Più remote, è stato, appartiene in toto alla storia di questo partito, che sai perfettamente che sarebbe un ottimo presidente della Repubblica, assolutamente super partito, perché chiunque... Cioè lo potrebbe votare pure Berlusconi, secondo lei, anche no? Dallo, ma certissimamente sì. Ma certissimamente sì, ma dice, ha detto delle cose tremende, ha detto delle cose. Ma certo, ma perché Napolitano non aveva detto delle cose tremende su Berlusconi? Bah, non lo so. Come no. Beh, insomma, comunque guardi, se uno conosce Stefano Rodotà sa sì. come farebbe il presidente della Repubblica. Ma al di là di questo ragionamento, sì. a questo punto hai l'occasione finalmente per varare questo governo con Grillo, con cui era andato a caccia fin dal primo momento dopo il risultato del voto, sì. e falla finita. Scusi, ma lei che è stato uno di quelli che è critico anche nei confronti di Grillo, dice adesso che il PD deve fare l'accordo con Grillo sia sul presidente che sul governo? Ma no, ma il governo, guardi, Grillo nel governo non entrerà mai perché non è scemo e sa di non avere persone. Però se uno fa eleggere, se il PD fa eleggere il voto, i voti fa partire il governo, esattamente quello a cui Bersani è andato in cerca fin dall'inizio. Ma il PD è comunque morto, secondo lei, professore? Il PD non è mai nato, non è che una cosa mai ma oggi, nata. Ma oggi, dopo questa votazione, dopo la bocciatura di Marini e Prodi, è morto o no? Definitivamente? Ma è morto definitivamente, non si scioglierà fin tanto che c'è la campagna elettorale alle porte. A meno che veramente non riescano in nessun modo a uscire da questa situazione, ma non è con Rodotà, perché con Rodotà uscirebbero con una prospettiva. Parenzo, condivido in pieno l'analisi del professor Cacciari, che saluto, ma voglio chiedere in più, ma a questo punto è Renzi l'unico quello che dà le carte? Infatti, però sì. Renzi non si è capito, perché ha appoggiato pure lui Prodi, forse l'ha addirittura poi pugnalato alle spalle ed nell'urna, perché Bersani morto, Renzi dalle carte ancora, Prodi andranno avanti a votarlo. No, ancora. Non credo. 395, sì, 100. Renzi appena... domani lo votano di nuovo. No, Renzi ha appena detto, professore. Renzi ha appena detto, noi stiamo seguendo minuto per minuto. Allora bisogna vedere domani i renziani che cosa votano. No, Renzi ha detto la candidatura di Prodi non c'è più. L'ha detto. Sì, va bene, ma io sono convinto che domani, la prossima votazione, ancora il Partito Democratico ufficialmente vota Prodi. Lei dice, domani. Sì, dico, perché veramente allora i prodiani all'interno del Partito Democratico diventa lo sconquasso totale. E D'Alema ha possibilità, secondo lei? Non se lo augura lei? Secondo me D'Alema ha delle possibilità, perché su D'Alema Berlusconi potrebbe dare il via libera. Dunque ci sono due schemi, o D'Alema con Berlusconi, o D'Alema con Berlusconi. Che ha preso, D'Alema con Berlusconi, perché... o Rodotà con 5 Stelle, queste sono le due possibilità, diciamo, no? Più o meno, per capire. Sì, cioè, al momento mi sembra che non ce ne sia altra, almeno che non sia una confluenza sia del PDL che del PD sulla Cancellieri. Ma quella non sarebbe una cattiva candidatura per la signora Cancellieri, o no? No, sì, certo. No, perché è cattiva. No, appunto, non sarebbe una cattiva. Non sarebbe capace, eccetera. Certamente che il PD è finito, ecco. Se la domanda è questa, è evidente che non possono assolutamente... Non si può, ma io oggi sull'Espresso lo dico, ma basta, un bel divorzio consensuale, facciamo, cioè Fabrizio Barca, che ha una bella idea di un partito socialdemocratico serio, organizzato, disciplinato. Ma è un leader, secondo lei? E che è anche un leader, Fabrizio, perché è anche una persona capace, competente e di buona scuola. Dall'altra parte Renzi può mettere insieme tutta l'ex ala margheritina ormai depressa all'interno del Partito Democratico e l'area montiana. E diventa un centro, signor centro. No, mi dicono che Vendola sta premendo su Bersani, minaccia conseguenze se tirano fuori D'Alema piuttosto che Rodotà. Cioè, qui il Partito Democratico non riesce a tirare. Ognuno, cioè ogni persona targata PD in qualche modo viene impallinata da una parte del partito. Ma per forza, perché non c'è il partito dietro, no? E quindi ogni persona che esce dal PD rompe all'interno del PD. È evidente. Devono andare su un'altra persona, non vogliono andare su Rodotà e vadano sulla Cancellieri. Qualunque persona del PD rompe all'interno del PD, perché? Ma perché il PD è diviso, come il sottoscritto sta dicendo da mesi, non lo vogliono riconoscere, fingono che non sia così, i geni alla Fassina, eccetera, eccetera, che fanno scuola, appunto, fanno l'arroganza dei vecchi comunisti senza avere un briciolo della loro intelligenza. Scusi professore, per concludere, però le voglio far ascoltare una cosa un po' per divertirci, perché una risposta la deve. Qui siamo stati travolti nei giorni scorsi da Vittorio Sgarbi, che ha detto delle cose tremende su di lei, delle cose irripetibili. Ne faccio sentire solo una. Farite Ripolle è uno straccione che non si pulisce i denti, non va dal dentista. La cosa fondamentale è che non fa la pulizia dei denti, gli puzza l'alito sicuramente. Non me molesta. Ma che è successo, professore? Come è che c'è la cosa? Beh, poverino, cosa vuole che dica? Ma cosa vuole che me ne freghi di quello che dice Sgarbi con quello che succede nel mondo e nel paese? No, lo so, però era curioso questa cosa. Che all'improvviso se n'è uscito con i denti, col fatto che lei. Ma cosa vuole che parli con Sgarbi? Dice queste puttanate unicamente perché qualcuno gli risponde. Lei dice lo fa apposta. No, c'ha ragione il professor Cacciari. Rispondo io per il professor Cacciari. È un coglione Sgarbi. Vabbè, maestro, tu se fai così poi quando è in diretta no, ti diverti, ma perché dai. No, io a Sgarbi glielo dico in faccia tranquillamente. Capisco che il professore, essendo filosofo, non lo può dire, però tecnicamente è un coglione. Vabbè, adesso poi ti faccio cazziare da Sgarbi, eh. Grazie professor Cacciari, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Saluti professore. Saluti, saluti, ciao. Ciao. Zanzara! Fulvio da Milano, buonasera Fulvio. Eccomi qua, ciao, ciao Cruciani, ciao Parento. Io sarò veloce perché so che non avete molto tempo. Volevo semplicemente dire. Ma veramente abbiamo un sacco di tempo ancora, comunque vada. Sì. No, volevo intanto manifestare la mia solidarietà a Parento per quello che ha detto. Insomma, ma si difende bene da solo, perché... non si preoccupi, si difende da solo. Si difende perché da solo. No, vai, ma Cruciani, ci tenevo a dire che è giusto che quando si oltrepassino certi. Certi livelli, soprattutto in un esempio come questo di alta democrazia. Comunque io tra D'Alema e Rodotà preferisco tutta la vita D'Alema, proprio all life long proprio. No, D'Alema, ma credo che faccia bene, quindi... lancia in resta proprio. Fulvio, allora? No, però solidarietà, massima solidarietà a Parento e sono... Ma non c'è bisogno, che... forza! Ecco. Poi, un'altra cosa che se mi è consentita dire, per me al Quirinale un candidato ci vuole adesso come adesso un candidato che non tanto unisce ma soprattutto non divide, quindi credo che la cancelliere sia la soluzione. Per me queste qua sono tutte parole assurde. Sì, ho capito, un candidato che unisce e non divide, ma non sono parole che non vogliono dire nulla, nulla, nulla e nulla. Paolo da Reggio Emilia. Salve, buonasera. Dica. Niente, grazie a voi, complimenti. Volevo fare una proposta un po' strana, per così dire. Io voglio proporre al PDL di votare loro ad Odotà, così Bersani ha veramente toccato il fondo e quindi dopo non potrà fare altro che non ho capito. No, visto che Bersani assolutamente non ha voglia di votare a Rodotà, che sì, in teoria dovrebbe essere un loro candidato, se io fossi in Berlusconi e in tutti gli altri lo distruggerei del tutto votando io Rodotà insieme ai 5 Stelle. Non ho capito, scusi. Lei vorrebbe votare? Rodotà insieme ai 5 Stelle, ho capito, questa era un'ipotesi nel cui un'ipotesi possibile per oggi in realtà, però Berlusconi non vuole Rodotà Presidente della Repubblica. Beh, per questo cui... l'abbiamo capito, però suppongo che Berlusconi si rende conto che accetta un D'Alema se Bersani ha il coraggio di presentarlo, se no non ha possibilità. No, ma le strade sono due, mi sembra che il segnale dei voti presi in più oggi da Rodotà rispetto ai 162 dei 5 Stelle sia abbastanza chiaro, cioè ci sono dei deputati nel Partito Democratico che vogliono assolutamente Rodotà, come ci sono altri che vogliono D'Alema, adesso bisognerebbe fare i conti. Beh, questo sicuramente è chiaro, nel senso che il PD è talmente eterogeneo come componente politica che è difficile trovare un'unità. Mi dispiace per Prodi che alla fine era un maratoneta, quindi... Vabbè, ma ha fatto una maratona in vita sua, su dai. Beh, Antonio da Roma, buonasera Antonio. Buonasera Cruciani. Dica. Io sono un elettore del PD e anche nel mio piccolo un dirigente locale, nel senso che faccio parte del direttivo del mio paese. E voglio dire una cosa semplice. Sì. Bersani si deve dimettere. Ma lei è bersaniano? Io non sono bersaniano. Però è proprio imbarazzante, cioè la guida del partito, non è che non c'è il partito, non c'è la guida, cioè ma in pochissimi giorni è passato da un accordo bipartisan col PDL per votare Marini e ha preso un abbaglio clamoroso, poi scheda bianca per decidere chi è il candidato, poi si passa a fare un atto di forza con Prodi e si è dimostrato che la forza non c'è, anzi c'è unicamente la debolezza, e adesso forse si tratta addirittura con Grillo, in modo che adesso si diventa subalterni a Grillo. Quattro strategie in tre giorni, basta. Cioè, il PD l'inadeguatezza totale di Bersani mi pare evidente. Grazie. Beh, danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Allora, siamo in collegamento con il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle. Buonasera, Di Maio. Buonasera. Come andiamo? Tutto bene? Abbastanza bene, sì. Ha votato Rodotà lei, tranquillo. Assolutamente. Sì. Sicuro, blindato, Penso che i numeri lo dimostrino. No, ma sì, ovviamente. Senta, da chi sono venuti quei numeri in più, secondo lei? Dal PD, da SEL, così, ma una sua idea? Secondo me sono tutti voti di coscienza. Cioè, in questo momento Rodotà è una calamita per tutte quelle persone che in Parlamento non se la sentono di votare per accordo di partito o tra partiti. È successo ieri con Marini e sta succedendo anche oggi con Prodi. E continuiamo. Rodotà è una grande calamita per le coscienze. Però scusi un attimo, Di Maio, Prodi però non è che è un accordo di partito, era il candidato proposto da PD e SEL, non era un accordo con Berlusconi. Cioè, no, è un accordo di partito, poi ci sono gli accordi tra partiti. Beh, anche voi avete proposto Rodotà, il vostro partito l'ha proposto, non è che l'ha proposto. Sì, ma noi lo stiamo votando, loro a quanto pare. Oggi ho parlato con un deputato del PD che mi ha detto: ieri ho votato Marini per linea del partito e mi sono finito per sentirmi io il franco tiratore alla fine. Aveva ragione, perché c'è un partito in questo momento che non è più coeso e Bersani sta fallendo su tutta la linea. Esiste ancora il Partito Democratico, secondo lei? Ma io non so se in realtà è sempre stato un unico partito. Io quando sono arrivato qui e si cominciava a parlare di fiducia al PD e di alleanze col PD, io dicevo sempre: quale dei cinque? Perché la percezione è che ce ne siano almeno cinque di partiti democratici. Cinque partiti democratici. Allora, pubblicità, torniamo subito con Luigi Di Maio, 5 Stelle, vicepresidente della Camera, giovanissimo, 26 anni, si avvicina, cioè si allarga, prende consensi oltre 5 Stelle la candidatura di Stefano Rodotà. Il PD dice scheda bianca, ritorna all'ipotesi Prodi. Ti droghi, dimmi la verità. La Zanzara. La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco. Mañana yo soy estanco como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno. Arrendetevi, arrendetevi, siete circondati, arrendetevi, siete invisibili. Che non sia vincente la strategia di Grillo su Rodotà, bah, vedremo domani. Intanto siamo in collegamento col vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle. Di Maio, io voglio capire una cosa. Ma Di Maio, è tutto attaccato? No, è staccato. Di Maio, tutto com'è? Ah, ok, vabbè. Staccato. No, Parenzo, che te ne frega te? Parenzo, che te ne frega? No, perché se lo chiedono milioni di ascoltatori, lui mi ha detto: fai questa domanda al 5 Stelle, dici, staccato, ma no, attaccato. Ma perché è fondamentale secondo te? Beh, questo è un punto in una giornata come questa, è fondamentale, certo. Vabbè, Parenzo, adesso stai zitto. Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto. Stai zitto. Scusi un attimo, allora torniamo alla, un ascoltatore che conosci bene. Torniamo alla votazione di oggi. Allora, Di Maio, io voglio capire una cosa. Secondo lei, quante persone, cioè SEL o PD, hanno votato per Rodotà? Ma guardi, secondo me è difficile riuscire a capirlo, perché in questo momento ci sono 50 voti sopra i voti del Movimento 5 Stelle e questi 50 voti credo che provengano, tanto possano provenire dal PD e da Sinistra Libertà. Poi è auspicabile che provengano magari da tutte le forze parlamentari, perché è una candidatura trasversale. Beh, insomma, Berlusconi non è che ama molto il professor Rodotà, vabbè. Però vabbè, quello è scontato. C'è una cosa curiosa, che Vendola ha già appena detto che se cade la candidatura di Prodi c'è Rodotà, ma è una votazione a giorni alterni quella di Vendola, Di Maio, cioè un giorno Rodotà, l'altro giorno Prodi, poi torna su Vendola. Guardi, spero che si mettano d'accordo, ma prima di tutto loro stessi, perché in questo momento stanno veramente navigando a vista e dimostrando un'inaffidabilità. Noi avevamo chiesto un segnale sul Rodotà anche per poterci fidare delle altre forze politiche, ma stanno veramente andando allo sbando in questo momento. Appunto, questa candidatura, questa votazione a giorni alterni è veramente una contraddizione in questo momento. Senta, ma Prodi è meglio che rimanga in Mali? Ma no, non lo so dove sta male, dove sta Prodi. No, male non lo so. Discorso, male non lo so, sta bene. Ma il discorso fondamentale in questo momento è che noi stiamo portando avanti Rodotà e ci devono spiegare perché non va bene. Beh, sì, il PD lo deve spiegare. Questo ha ragione. Sì, devono spiegare perché non va bene. Probabilmente, però, Di Maio, non va bene perché lo proponete voi anche per spaccare il Partito Democratico. Adesso, al di là del fatto che voi lo proponete perché è un candidato votato da quelli che hanno fatto click sul computer, dalla rete, cioè dalla base, da quella che voi chiamate la base, gli elettori che si sono iscritti. Come la posso dire una cosa? Rodotà è il terzo di questo elenco delle Quirinarie. Ed è stato anche il caso che ha voluto Rodotà, perché Gabanelli non se l'è sentita, Gino Strada ha fatto endorsement per Rodotà e alla fine è uscito Rodotà, quindi non c'è una strategia contro il PD, stiamo portando dei nomi che sono fuoriusciti dalla rete. Voi sapevate che la Gabanelli e Strada si sarebbero ritirati, il candidato vero era sempre stato Rodotà. Questa è una sua supposizione, abbiamo portato avanti per una giornata e mezza intera Gabanelli, non è che aspettavamo. Vabbè, poi dopo un giorno lei ha rinunciato, ma era abbastanza chiaro che Gabanelli e Strada non avrebbero avuto il consenso nemmeno minimo delle altre in Parlamento. Su Rodotà si poteva lavorare, ma è stata una strategia. E magari sono stati, come dire, fortunati o sfortunati a secondo dei punti di vista, quelli di PDSL. Scusi un attimo, ma Rodotà dunque fino alla fine, no? Non si ritirerà? Lei ha notizie sicure che non... Vabbè, a questo punto chiaramente no, però comunque non si ritirerà. Ma lui ha assolutamente detto di voler proseguire con questa esperienza della candidatura alla presidenza della Repubblica insieme a noi. Noi l'abbiamo sentito telefonicamente, c'è anche un video su YouTube in cui noi gli facciamo sentire tutto il nostro calore come gruppo parlamentare, ma precisando che Rodotà non è il nostro candidato. Rodotà è patrimonio del popolo italiano in questo momento, tutte le forze politiche che vogliono votarlo possono cogliere questa occasione. Scusi un attimo, ma Prodi è morta come candidatura? Non lo so se vogliono continuare sua valutazione, con questo accanimento terapeutico. Sarebbe un accanimento terapeutico Prodi, eh? Ma a mio parere sì. Questo è abbastanza significativo. Scusi un attimo, ma a proposito di altre vicende che riguardano i 5 Stelle, lei sarebbe andato a porta come ha fatto Crimi? Oppure è stato un errore mettersi a sedere su quella poltroncina bianca? Ma abbiamo precisato come è andata quella questione, in ogni caso i nostri portavoce si consultano con noi su alcune vicende che avvengono e Crimi ha ritenuto opportuno andare lì. No, ma questo che abbia ritenuto opportuno sicuramente, perché altrimenti nemmeno ci andava. Però lei, Di Maio, si sarebbe sentita a suo agio, oppure comunque il fatto stesso di andare da Bruno Vespa, anche se in un'intervista chiusa, per carità, senza partecipare al dibattito, è stato comunque un errore farsi vedere da Vespa? No, non credo che sia stato un errore, anche perché rispondeva al problema Mastrangeli, insomma è stato pubblicato e comunicato più volte la questione lì. Dunque non è stato un errore, si può andare da Vespa? Ma come funziona? Sarebbe preferibile di no. Sarebbe preferibile non andare da Vespa? No, non andare ai talk show, come abbiamo sempre detto. E dunque sarebbe, d'accordo, i talk show è una cosa, ma nemmeno in questa formula da Vespa bisogna andare, secondo lei? No, vabbè, chi ritiene opportuno può andarci, insomma. Però sarebbe... Io magari per ora non lo ritengo opportuno al momento. Per cui sarebbe opportuno, secondo lei, non andare nemmeno nella formula utilizzata da Crimi, cioè seduto su una sedia così a fare un'intervista? Secondo me in questo momento non avrei niente da dire, però è chiaro che se magari si creano altre condizioni forse è opportuno, dipende dalla situazione. Sì, certo. Sento una cosa, ma voi a che serve? Voi avete la rete? Ma sì, ma infatti pure secondo me è sbagliato andare, io l'ho sempre detto. Poi se proprio una Vespa, capito? Cioè lì proprio infatti secondo me è stato un errore clamoroso. Sbardella. No, beh, Sbardella addirittura, sì, Sbardella, adesso perché è un po' su di peso, Sbardella, sì, dai, insomma, non fare Sbardella. Queste distinzioni quasi... Vabbè, è un criminale, Sbardella è un criminale. Beh, insomma, non è stato proprio un uomo della Prima Repubblica, se Sbardella, andava sempre la Vespa. Senta, Di Maio, ma invece fosse per lei Mastrangeli sarebbe espulso, so che lei è alla Camera, eccetera, però comunque è una cosa che riguarda pure voi. Ma dell'espulsione noi non decidiamo noi decidiamo soltanto se metterlo al giudizio del portale e lì i cittadini iscritti al portale decidono se Mastrangeli o chiunque altro, come è capitato in passato per quella la vicenda Grasso, possono essere espulsi o meno, insomma non siamo noi a decidere. No, d'accordo, però adesso non ci dire, se il gruppo... No, secondo me sulla questione Mastrangeli bisogna intervenire. Sì, perché andare dalla D'Urso due volte nonostante la il monito, diciamo, comunque. No, ma guardi, la questione è ancora, viene ancora prima. Io sto parlando con lei, però ovviamente mi sono consultato col gruppo prima, certo, di parlare con lei, solo, certo, perché la nostra linea è cercare di pianificare gli interventi senza aumentare il rumore. Quindi se c'è una persona che vuole andare magari in TV o partecipare ad un'intervista, è bene coordinarsi con tutti gli altri del gruppo parlamentare, tutto qua. Però se invece ognuno prende proprie iniziative e va, fa corse in avanti, inizia veramente, insomma, un baccano enorme. Lui ha tra l'altro ha detto che Crimi a doversi dimettere perché è andato a Porta a Porta. Cioè, in realtà la questione di Mastrangeli, dice lei, è che non si è consultato con nessuno, fa di testa sua. Ma il punto non è che non si è consultato con nessuno, è che, insomma, se fa quello che gli pare, come lo cominciano a fare tutti a 163, appunto, di certo non continuiamo ad informare, facciamo solo più rumore. E dunque, secondo lei, va espulso? La sua opinione su questo? Io ho detto soltanto che secondo me va rimesso al giudizio della rete. Però avrà una sua opinione, cioè, se lei è in rete, voterebbe per espulsione oppure no? Questo da capire. Sì, cioè, sì, voterebbe per espulsione. Ma nel senso che anche uno che è voluto, cioè, vuole anche forse di proposito andare fuori dal gruppo, secondo lei, o no? Cioè, sta facendo di tutto per farsi cacciare. Non sono nella tua testa. Va bene, grazie. Grazie a lei. Grazie Di Maio, grazie. Buona serata, arrivederci. Well, now, little mosquito, there must be. Che grande casino, che grande casino, ma mi sembra che monti la candidatura di Rodotà, o no? Ma Rodotà alla fine si potrebbe, con tutto sto bailame, potrebbe spuntarla. Cioè, la Torre pochi istanti fa dice che D'Alema, che se lo dice lui addirittura, sembrerebbe bocciare l'ipotesi D'Alema, ma apre anche con delle parole significative a Rodotà. Bah. Pubblicità. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Tranquillità, serenità. Beh, calma, tranquillità, serenità, però 395 voti, 395. Come, scusa? Con calma, senza fretta. Ho un po' mali, sto un po' mali, ma adesso recuperiamo. Beh, sta un po' mali, è in mali, professore, è in mali. No, sto mali per il paese, io sto benissimo, liri. Poi il governo, poi Ardo di Stato, sto benissimo, il paese sta male. Vabbè, capito. Carlo da Bergamo, buonasera. Buonasera. Dica. Io so chi sarà il nuovo presidente della Repubblica. Oh, dica. Sarà Claudio Bisio. Se vuole le spiego velocemente perché. Perché? Hanno cominciato a parlare il politichese. Mm. Quindi domani Berlusconi manderà dei segnali a Bersani, che li manderà a Monti, che li manderà a Berlusconi, e per non votare come nel film Giuseppe Garibaldi, sì, perché se no c'è già stato, voteranno Bisio. Lei dice, e quindi Claudio Bisio diventerà presidente della Repubblica. Lei dice, Bisio. Beh, secondo me sì, sta montando in quest'ora effettivamente, Carlo, sta, sì, montando, sta montando. Piero da Pistoia, buonasera Piero. Pronto, mi sente? Buonasera Cusciani. Vada. Senta, allora, volevo commentare l'intervento di Travaglio ieri sera, che mi trova d'accordo sulla disamina del ventennio del PD contro Berlusconi, che non hanno fatto niente. Volevo dire, qualche uomo ce l'avrebbe la sinistra, vedo Cacciari, non parliamo di Renzi, Gino Strade, ho sentito parlare, sindaco Emiliano, a me personalmente piace. Li bocciano tutti in partenza, li fanno sempre le ali. Ma chi è il grande vecchio che li consiglia, che poi arrivano a tentare di fare un governo con Grillo e vengano umiliati, si mettono con Berlusconi per vedere di fare Presidente della Repubblica, non ce la fanno, tentano di farlo da soli nominando Prodi, peggio che mai, rifiutano Rodotà, che è uno di loro, cioè non gli hanno proposto Almirante, non so se mi spiego. Ho capito, ma il problema è che nella politica succede anche che questi qua gliel'hanno, cioè esistono anche le strategie, e la Rodotà sarebbe un trionfo totale di Grillo contro il Partito Democratico, cioè secondo me se Rodotà viene eletto Presidente della Repubblica sarebbe la distruzione del Partito Democratico ancora di più di quella che è in atto adesso, cioè se Rodotà viene eletto proposto da Grillo contro il Partito Democratico e contro le scelte del Partito Democratico e votato addirittura come terzo uomo dal Partito Democratico, sarebbe un disastro totale, ed è per questo che molti dirigenti del PD, sto leggendo adesso Bressa, che è per carità un prodiano, dice: io personalmente Rodotà non lo voterò mai, non accetto il modo di votare che c'è nei 5 Stelle, e i 100 che hanno votato oggi, che non hanno votato Prodi, sono degli irresponsabili. Lo capisco, perché sarebbe la distruzione del Partito Democratico, sarebbe come consegnarsi a Grillo, è così, è la realtà. Stefano, provincia di Venezia. Sì, buonasera a tutti, buonasera Cruciani. Allora? Buonasera Parenzo. Niente, io chiamavo solo per questo, sul Toto Presidente. Io credo che la persona che è intervenuto poco tempo fa, il professor Massimo Cracciari, secondo me, possa essere veramente una figura valida per rappresentare il nostro paese, e credo che in effetti con la sua competenza e con il suo saper gestire tutte quelle che possono essere le criticità. Ma non è candidato Cacciari, cioè è inutile. Ma Stefano, io credo che questo, lei ha perfettamente ragione. Non però è candidato, non è candidato. Purtroppo qui in Italia non ci sono sempre le famose lobby. Bisogna guardare oltre, bisogna guardare le persone che secondo me hanno competenza e che riescono effettivamente a fare il bene del paese. Cacciari, secondo me, è la persona giusta, la persona che è sempre stata al di fuori di ogni sospetto, la persona che è stata capace, le dico, io sono di Venezia, anche nella realtà. Vabbè, non è candidato, traffico. La zanzara. La zanzara, la zanzara, la zanzara, la zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Fausto, provincia di Napoli, buonasera Fausto. Oh, buonasera dottor Cruciani, innanzitutto le faccio i complimenti per la trasmissione, va bene? Vabbè. E poi volevo dire una cosa a Parenzo, innanzitutto stasera sto godendo come un matto, prima perché Prodi si è fatto il viaggio, come si suol dire a Napoli, e questa è una grande goduria, secondo perché ha parlato Luigi Di Maio, che di cui io sono un grillino, quindi non posso che godere. Ma volevo dire a Parenzo una cosa molto semplice, come lui diceva sempre prima che si facessero le elezioni, che Berlusconi è tutto finito, è tutto finito, è il PD che ormai è tutto finito, ormai non esiste più, caro Parenzo. Dov'è? Ci sta Parenzo? Sì, c'è. Ah, caro Parenzo, ma sono mica... prenda atto che ormai è tutto finito. Ma io non sono ormai un difensore. Non c'è più niente da fare. Ma questa ragione Cacciari ha detto bene. Ha detto non è mai nato. Ma guardi che forse non ci siamo capiti. Io non sono il difensore del Partito Democratico, brutto genio della lampada, che telefona alle 20:08. Io non sono il Partito Democratico. Io sono Parenzo, ma molto di più. Un attimo. Pronto? Signor Franco Prodi? Sì. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, la disturbo? Sì, perché non vedo perché mi vuole chiamare. No, la voglio chiamare semplicemente per capire se c'è un po' di delusione in questa votazione di questa sera. Ma si commenta da sola, io non... Chi è che ha tradito, secondo lei, suo fratello? No, non me ne intendo di queste cose, quindi vedo solo che è male per il paese, questo è il problema grosso. Perché è male per il paese, secondo lei? Ma perché è l'unica persona romana che poteva uscire fuori da una situazione del genere. Ci si rende conto che è una drammaticità estrema. Sì. Estrema. Ma lei ha sentito suo fratello in queste ore? No, in Africa. Non in Africa. Senta, ma secondo lei chi è che l'ha tradito? Perché c'è stato un tradimento di 100 persone. Come le definisce lei queste 100 persone? Ma lo sapete benissimo. Perché lo volete sapere da me? No, non lo so io, francamente non lo so. Che... Insomma, ce ne mancano 100. Dunque, chi sono stati? Dalemiani, chi sono stati? Guardi, ma io non sono un politico, sono fratello fuori dalla politica, quindi non lascio nessuna discussione perché... No, lo so, però è rimasto male, voglio dire, è rimasto colpito da questa cosa, che 100 persone che magari la mattina avevano alzato la mano dicendo no, e all'unanimità, poi nel segreto dell'urna, cioè, come lo giudico un tradimento? Ma insomma, come te devo giudicare, scusi, sa. È meglio che non lasci nessuna dichiarazione, perché insomma mi sembra che nelle passate occasioni sì, sia stato tradito dai suoi, no? Prima di tutto che dagli avversari che fanno il loro mestiere, e quindi è stato tradito dai suoi ancora un'altra volta. Ma c'entra D'Alema secondo lei in questa cosa? Ma un'impressione, posso sapere. Ma così è un'impressione, ma no, è... non voglio entrare in questi tipi di discorsi perché non mi intendo. Ma secondo lei deve rimanere, deve continuare, oppure è meglio che abbandoni dopo il risultato di oggi? Ma è lui che ha la sensibilità, secondo me, ha un peso, e sono gli altri che devono pregarlo di continuare. Dandogli, promettendogli un tot numero di voti, insomma, secondo come la vedo molto chiaro. Va bene. No, no, ma volevo sapere che se c'era un senso di delusione, di sconforto, questo no, era. Sconforto, io ormai ho già lasciato la politica da tempo. Se l'Italia ha bisogno di lui, lo deve chiamare con la dignità e con una carica di così alto valore istituzionale, lo deve chiamare con il rispetto, no? Con questi giochi, con queste. Non parliamo, insomma, è un quadro che. Cioè, è stata una fregatura. È cominciato perché nessuno considera che il lavoro di Bari è la prima cosa di Berlusconi, che è assolutamente inconcepibile. Cioè, quella cosa di scappare dall'Italia, andare via dall'Italia, dice lei. Ma quello, ma proprio lo volete voi, l'esclusione. E poi si lamenta se gli altri fanno le altre esclusioni, è una cosa che non. Però non mi pare che la responsabilità di oggi sia di Berlusconi, dottor Prodi. Guardi, io non voglio parlare, e l'ho detto all'inizio che non volevo parlare, siamo già a posto. Grazie. Non sono affatto deluso perché noi non abbiamo le nostre professioni, il nostro. No, ma è la delusione è per una partita che si gioca, e se no altrimenti. Vabbè, è chiaro che il Partito Democratico è morto, secondo lei, oggi? Ma secondo me certamente la gente non gli darà più la fiducia, la gente che si comporta così. Ma chi sono questi scienti? Vorrei capire, persone dalle mie. Cioè, c'è un burattinaio. Non sono un burattinaio. Sono fisico dell'atmosfera. Lo so benissimo. Certo. Basta. Queste altre cose le commentate voi. Vabbè, grazie. Grazie professore, grazie. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per David? Me. David? Sì. Hai sentito, sì? Beh, professor Prodi. Sì. Le zanzare di casa mia. Non è professore anche lui? Sì, sì, è professore anche lui. Delusione, una delusione pazzesca, hai sentito, no? Delusione infernale. Ma che sei una famiglia molto molto unita, i Prodi. Claudio, con chi eravamo? Con chi eravamo? Eravamo con Fausto, sì. Ah, Fausto dalla provincia di Napoli. Allora, le stavo dicendo, Cruciani, per quanto riguarda Parenzo, ma Parenzo è uno che in parte ha quasi sempre difeso il PD, non mi venga a dire che adesso non ha mai preso le difese del PD, anche stasera. Vabbè, ma è simpatizzante, su, ma guardi, io conosco adesso, lasciamo perdere, Davide Parenzo è una persona libera mentalmente di testa, poi ha la sua sensibilità, le sue preferenze politiche, le sue amicizie, le sue cose, come tutti. Io un po' di meno, però questo non c'entra nulla, perché ho un altro tipo di struttura politica, eccetera, ma questo è un altro discorso. Mi consente, era anche un attimino di sfottò, non per niente. Ma però sì, ma lei lo deve sfottere, perché oggi lui è un po' abbattuto. Sì. Il professor Romano Prodi era il suo candidato. A me Romano Prodi è piaciuto moltissimo. Ho detto che è il miglior presidente del Consiglio che l'Italia ha avuto, questo è sicuro. Ma questo io volevo dire, per un'altra cosa, in riferimento al fatto che voi molte volte parlate di poca democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle, io le faccio soltanto notare che dove noi voteremo qui a Portici, in provincia di Napoli, i candidati li abbiamo scelti noi, attivisti, simpatizzanti, non con le logiche di partito come stanno facendo anche. No, Fausto, scusi, i candidati alle primarie del Partito Democratico sono stati eletti quelli al Parlamento sono stati eletti con le primarie, il leader è stato eletto con le primarie, poi uno può discutere sul modo in cui sono state fatte queste primarie, però insomma adesso non è che. Ma non andiamo sui premi locali. Claudio da Torino, buonasera Claudio. Buonasera. Vada. Allora, lei ha detto due parole chiave. Ha detto cancellieri e burattinaio. Sì. Allora, io volevo fare un'analisi magari complessa per la maggior parte della gente. Complessa, però magari ne facciamo meno. Lei faccia. Se era condivisibile. Sì. Allora, il PD è diviso in tre parti. C'è una parte democristiana che ha spinto Marini si è visto quello che è successo. C'è un'altra parte che oggi ha spinto Prodi, che è sempre di quella parte lì, e io sono convinto che quei 100 voti siano gli stessi democristiani, bindiani, lettiani, franceschiniani, che non gli abbiano dato il voto, e le spiego anche il perché. Perché qua, secondo me, ha detto il sostantivo burattinaio, evidentemente, io premetto, ho votato PD e Grillo. Ma chi è il burattinaio di questi 100, secondo lei? Il signor Casini, l'onorevole Casini. E perché, scusi, ma secondo lei 100 deputati del PD fanno riferimento a Casini, che ha preso l'1% alle elezioni? Ma su, Claudio, dai, su. No, Cruciani, ma dai. Casini è fuori. Vuole rientrare, cioè. Ma ho capito, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Comunque domani è il compleanno di D'Alema, tra l'altro, Attenzione, domani è il compleanno di D'Alema. Vabbè, a parte questa cosa su Casini, che è improbabile, Claudio, l'altra cosa qual era? No, ma dicevo, se il partito si sta scindendo, si sta spaccando perché si è rotto, e si scinderà, la Bindi, i Franceschini, dove andranno? Me lo dica lei. Vabbè, ma adesso lasciamo perdere. Secondo lei chi è questo grande, il grande burattinaio è Casini? Sbagliato. Salvatore da Catania, buonasera. Secondo me è sbagliato, Salvatore da Catania. Sì, pronto, buonasera. Vada. Buonasera a tutti. Allora, senti, io sono, diciamo, allibito sulla poca memoria del popolo italiano. Perché il signor Grillo era il primo che diceva che al Quirinale c'erano zombie, c'erano delle mummie, dei morti viventi. E magari la colpa non la dà Grillo, perché si faceva della buona pubblicità sul suo partito. Però, diciamo, lo zoccolo duro dei 5 Stelle hanno votato Rodotà. Cioè, Rodotà, allora? Rodotà, scusi. Stanno portando avanti quest'uomo di una certa cultura, una certa esperienza, però di 80 anni. Sì. Ma questo da qui a 7 anni, io gli auguro 100 anni di salute, ma magari forse manco ci camba. Cioè, parli di mummie, ma non do la colpa a Grillo, do la colpa al popolo italiano, soprattutto a quelli iscritti al Partito 5 Stelle, che gli applaudivano. Guardi, gridavano. Salvatore, io sulla questione Rodotà le do totalmente ragione, perché d'altra parte il candidato loro criticava anche Grillo parlando di populismo qualche tempo fa, qualche mese fa. Prende 8.000 rotti di pensione, dunque non è proprio un grillino doc. Eccetera eccetera eccetera, eppure è il candidato uscito per una serie di motivi, perché ha appoggiato il referendum sull'acqua, perché è di una certa sinistra che piace molto a Grillo e anche alla base dei grillini, eccetera eccetera. Alberto da Palermo, buonasera Alberto. Buonasera, io volevo dire una cosa. Io insegno a scuola e vedo i ragazzi nati nel 92, del 94, sono incasinati, così come lo è il PD, cioè sono il perfetto simbolo del casino che c'è in Italia. Non c'è solo un burattinaio, c'è il burattinaio Grillo che gestisce i suoi, è chiaro. C'è Berlusconi che gioca al massacro, lo sa fare perfettamente, getta sconquasso del PD e gongola. Guardi che in questo caso il PD si è ucciso da solo, cioè qui non c'è nessuno sconquasso di Berlusconi. Cioè Berlusconi è stato fermo, cioè ha fatto un accordo su Marini col segretario, con l'abbraccio tra Bersani e Alfano. E quando sembrava fatta è stato impallinato Marini, adesso ha fatto tutto il Partito Democratico. Cioè Berlusconi non ha fatto nulla, ha proposto a Berlusconi basta pungere come la zanzara, come fate voi. Dà indicazione ai suoi, gettando completamente nel casino il PD, che è ormai allo sbando. Ma avete visto Fassina, quel responsabile economico del PD, con quella faccia triste e poi la fotocopia di Bersani? È assurdo, siamo alla resa dei conti. Bene, grazie, abbiamo la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. La zanzara. Non me molesti il moschito, non me molesti il moschito, non me molesti il moschito. Why don't you go home? Che disastro, ragazzi, che disastro, David! Ma è un disastro per gente come voi, che ha scelto di mandare in Parlamento una pattuglia di deputati che hanno generato il caos. Ma che cazzo dici? Ma di che stai parlando? Hanno votato Rodotà sin dal primo turno, quale caos? No, dico, ma sei impazzito? Cioè il PD sta esplodendo e dai la colpa al 5 Stelle, ma sei matto? Ho detto, da una parte questo, e dall'altra parte un Partito Democratico, come ha detto Cacciari, ormai è balcanizzato, è finito. Morto, mai nato, cioè, questo è il punto. Ma se uno è lucido deve riconoscere che se da una parte c'è la morte di un partito mai nato, dall'altra ma quelli hanno i numeri per fare quello che vogliono, in teoria, se proponessero della gente seria hanno i numeri ma per fare quello che vogliono. Sono divisi, te l'ha spiegato il professore poco. Vabbè. Tu gli hai fatto Luca, hai fatto dalla provincia di Varese, dai Luca dalla provincia di Varese, poi tentiamo, sì, Luca dalla provincia di Varese, su. Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Io in questo momento, se fossi nel PD per salvare il PD, farei l'accordo con PDL, Lega e Lista Monti, D'Alema e segretario generale Gianni Letta, o altrimenti se fossi in Berlusconi per sparigliare le carte metterei sul tavolo Passera o Casini. Ma che c'entra Passera o Casini, che sono è impossibile che diventino presidente della Repubblica? D'Alema secondo me è l'unica possibilità. Così, sentiamo La Torre un secondo, La Torre. Penso che sia questa la candidatura che possa farci uscire in questo momento da questo stallo. Naturalmente questa è una mia personale opinione e il partito rifletterà, il centrosinistra rifletterà e valuterà quale, se scegliamo la strada politica che prima indicavo, qual è la candidatura più opportuna. Senta, Sel, i socialisti e tutto il centrodestra vi accusano di aver fatto e di stare facendo un congresso interno al PD sulle spalle del paese. No, non è così. Certamente saremmo ipocriti. Cristina, provincia di Torino. Se non riconoscessi. Sì, buonasera. Due... Dica. Mi sente? Sì, dica. Ecco, io volevo dire, allora, io ho un'opinione diversa, cioè, allora, la morte del PD, il caos, invece no, ci vuole questa morte, ci vuole questo caos, sa perché? Perché noi giovani abbiamo cominciato a parlare adesso di politica. Ma che c'entra, scusa? È vent'anni che ci hanno rincretiniti, adesso, grazie a qualcosa, può essere il caos, però dal caos... Secondo me, e secondo tanti come me, della mia età, comincerà veramente la politica di sinistra e anche forse politica insieme a Grillo, perché sarà quella la vera politica, da qua a 5-6 anni. Perché basta, studenti, basta. Ci hanno rovinato la nostra immagine e in più continuano a far casino, non sanno far politica perché non hanno nessun sentimento verso il popolo. Il popolo. Quindi la morte, il caos del PD, va bene, io ho votato PD, però uno dei tre PD. Quindi da adesso in poi noi giovani vogliamo una politica o di sinistra o nuova politica, ma che sia veramente una politica che parli di noi, che parli dei bisogni, dell'ingiustizia sociale. Ma ne parlano tutti, Cristina, ne parlano tutti, su, non dica stupidaggine. E questo sarebbe giovane. Dai, su, mi sembra, a me mi fanno impazzire quelli che dicono ci vuole qualcuno che parli dei bisogni. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire nulla, bisogna fare delle proposte concrete, non parlare dei bisogni. Ma Mauro da Mantova, su, dai. Eva Cruciani. Sì, dica. Ma c'è ancora quell'ebreo Ricchione lì con te? Sì, come no, sta qua, è presente. Ma non hanno ancora schiattato quel poro malato di mente, quello di Cappatoli? Ma quello no. Lì serve come un condizionatore polonoso, una stufa del Sudafrica. Cioè, non serve a niente, non serve altro a far altro che far incazzare gli italiani. Cioè, già l'Italia va di merda. Poi c'è sto testa di cazzo che continua a sparare minchiate olimpioniche, cioè, ma sento parole, senti tutta. Mi è toccato sentire o avere paura che Prodi diventasse Presidente della Repubblica, mi è venuto il vomito, mi è venuto Prodi Presidente della Repubblica, un delinquente legalizzato, ha rovinato l'Italia, un delinquente, questo in una serata sola. Come dici? Quello è un delinquente, ha regalato tutti i soldi del gruppo IRI agli amici dei Benedetti, agli Agnelli, ai Colamini, ai Marcegalli, sono tutta quella gente lì. Ma tu ce l'hai 1 milione di euro da pagare, no? Questo è il conto. Sia tranquillo, aspetti un attimo. Ma non l'ha fatto gratis, eh? Un attimo solo, ascoltatore, non l'ha fatto gratis. Sì. Scusami, ascoltatore, non voglio dire ascoltatore idiota perché sembrerebbe un'offesa e non ti voglio dire che sei un idiota. Però ascoltatore a cui non voglio dare dell'idiota, ricordo che in 3 minuti di telefonata lei si sta prendendo una querela da De Benedetti, Prodi e dal sottoscritto. Secondo me 1 milione di euro le arriva oggi. 1 milione di euro. Ha capito? Ma non parli perché sei una merda. Ma che vuol Hai dire? Capito? Allora, quando uno è uno stronzo, e gliel'avrò detto di volte, e ha ragione, è uno stronzo, non puoi parlare, gli stronzi al massimo puzzano. ma non possono parlare. Ma come fa a pagare tutte queste robe? Cioè? Come fa a pagare tutte queste querele? Ma no, ma non deve pagare nulla, ma, amico. Ma quale querela? Dai con le tue querele mi pulisco il buco nel culo, oh! Lei ma da oggi un uomo rovinato. Sei da oggi un uomo rovinato. A quei poveri terrorizzati. È rovinato lei da oggi. È un uomo rovinato lei da oggi. Ma quale uomo rovinato sei tu? Che sono sfigato da dare del cacchio. Tu sei rovinato. È rovinato, ma sei rovinato. Tu sei rovinato. Tu sei rovinato da quando sei nato. Perché a te ti è entrato sul barile, e mi chiama uno stronzo. No, non è uno stronzo, è suo figlio, siamo... signora. Porca puttana, mi è capitato uno stronzo per figlio. Siamo arrivati a 2 milioni di euro. Che sono arrivati. Adesso sta insultando addirittura la madre, Mauro, si calmi, su. No, ma la mamma non ha colpa, se l'ha trovato lì, se l'ha dovuto tenere sto stronzo. Ma tu ti rendi come ma io sono che la povera mamma lì, come sarà dispiaciuta aver fatto una roba del genere. Ma come io mi chiedo, ma una persona che chiama e che per 6 minuti insulta e poi di nuovo avvisato che è arrivato a 1 milione di euro e adesso è arrivato a 2 milioni, ma ancora continua. Ma gli conviene chiudere il telefono e iniziare a lavorare? Te ne cerchi tu! Tu ma come faranno a pagare le Benedetti, al tuo amico De Benedetti, tuo amico Bersani, te ne cerchi! Ma come visto, adesso mi spieghi come fai adesso che ti sto querelando? Come fai a pagare? Te ne tieni anche, te ne tieni! Ma come fai adesso che ti ho querelato? È già finita la querela con l'avvocato Trucco per l'informazione aggravatissima. Ma scusa, come fai? Che non ho un cazzo! Io non ho un cazzo, non mi porti via niente, non ho ma un cazzo! Ma mi tocca portarti la casa popolare, la macchina non è mia! Che cazzo mi porti via? Che faccio una reddito zero! Testa di minchia! Che cosa mi porti via? Testa di minchia! Ma anche l'ingegnere Benedetti, tutti ti querelano adesso, 3 persone, trovi, io te le metto, Parenzo! Sai cosa faccio con le tue querele? Mi pulisco il sederino. Ma siamo arrivati a 2 milioni e mezzo di euro in 7 minuti. Più continui, più sale. Ma, ascolta, ma non va a sparare cazzate. Ma sta salendo il massimale. Tu non dovresti nemmeno parlare una radio. Tu al massimo potresti parlare a qualche, in qualche ospizio, a qualche vecchietto di 90 anni che non capisce una minchia, e allora ma magari sta salendo il massimale. Ma tu sei lo zero. Tu sei lo zero! Ma tu no, ma perché continui che siamo arrivati quasi a 3 milioni di euro adesso? Perché? Vali meno di una cicca! Vali meno di una cicca! Fermi ma tutti! Stia zitto, stai zitto anche tu! E non ti proporre come giornalista! Traffico! La zanzara! Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Calma, tranquillità, serenità. Com'è che fa Prodi, Parenzo? Serenità, tranquillità, basta zanzare, ma come basta violenza, ma come basta zanzare? Basta insulti, questo cruciale tutte le volte, urla sempre, ascoltatori, no niente ascoltatori, pacatezza, tranquillità, concordia nazionale, concordia, non sangue e merda, dice sempre parolacce, cruciali, la radio, adesso alla radio della Confindustria metteremo un conduttore a mia immagine e somiglianza, che parla tutto così piano, basta adrenalina, basta urla, chi no, Beethoven, Bach. Quindi vai a cercare un vabbè, se lo dice lei, Prodi, cosa dobbiamo dire? Comunque, insomma, la realtà è che Prodi è uno dei personaggi più imitati in assoluto, è anche facile, lo fa pure Parenzo, insomma, così all'impronta, no? Veloce, rapido, no? Cioè, non è difficile. C'è un lavoro, ma no, c'è un lavoro di autore pazzesco, cioè, ogni volta. Vabbè, non fu difficile in realtà nemmeno per Corrado Guzzanti, anche se poi lì quello che conta è il testo, no? È tutta la costruzione del semaforo, la genialità del semaforo. Senta, le volevo fare questa prima domanda, no? Perché lei è molto originale come politico, ma a chi si è ispirato? Quali sono, non so, i suoi maestri? Pensavo De Gasperi o Segni, oppure Segni, Don Sturzo. Però le devo confessare, sì, che già da ragazzo, quando cominciavo a fare la politica, un simbolo più di altri mi aveva colpito e ispirato. Quale? Il semaforo. Sotto il semaforo tutte le macchine corrono, hanno fretta, devono andare, devono scappare, fanno le corna al finestrino, si agitano, si muovono e lui fermo, tranquillo, governa in mezzo alla strada, la situazione è sotto controllo, nessuno la muove, immobile, il semaforo. Semaforo. Ma da lei non lo sapeva. Una lucina verde, una rossa, sì. Non si muove, tranquillo. Tranquillo. Ma volevo dire, ma D'Alema lo sapeva quando l'ha scelta come leader che lei era un semaforo? Semaforo, non lo sapeva. Non sapevo. D'Alema era in un momento di grande difficoltà. Cercava qualcuno che lo potesse portare a vincere le elezioni e guardava nella nebbia, ha visto queste luci colorate, questo rosso, questo verde e ha pensato, ecco una macchina da corsa che mi può portare a vincere le elezioni, la prendo, la compro, ci salgo sopra, invece, era salito sopra, un semaforo che è rimasto lì. Fermo. Non si è mosso di un metro, immobile. Adesso se ne è accorto D'Alema che lei è un semaforo, mi scusi. L'ho pregato. Ah sì, ecco. No, perché lei fa un sacco di gaffe, diciamo, su tutto, politica estera, tasse, pensioni. Lei è un po' arrabbiato, vorrebbe scaricarla, diciamoci la verità. Pensava di controllarmi come un burattino e invece l'ho fregato, mi sono scappato di mano. Ma come sai, su Prodi, caro Parenzo, c'è una specie di, non dico di conflitto di interessi, no, ma una concorrenza in famiglia. E non è la grande famiglia della Zanzara, eh. Ah, tu dici della famiglia Guzzanti, all'interno della famiglia Guzzanti. La famiglia Guzzanti, certo, perché c'è Corrado, e abbiamo sentito, grande maestro delle imitazioni, in particolare di quelle di Prodi. C'è anche però Paolo Guzzanti, il padre, anche lui bravissimo nelle imitazioni, qualche giorno fa ci ha fatto Prodi. Prodi da noi, perché parlavamo, lo sai, della vicenda Prodi, spia o no del KGB, e poi Moro. Un generico Rocco emiliano sospeso, attaccato ai suoi salumi, ai suoi valori, alle sue memorie, ma con questo odore di insaccato, indelebile, indelebile. Però forse è più bella quella sui piattini della seduta spiritica famosa in cui Prodi and Company tirano fuori il nome di Gradoli, che si riferiva a via Gradoli, insomma, tutti i misteri. Il covo. Il covo di Moro, uno di quelli, il covo delle Brigate Rosse, non dove era Moro, il covo delle Brigate Rosse, ma insomma, uno dei grandi misteri che avvolgono la figura di Prodi. Ma la seduta spiritica come andò, signor Prodi? Ecco, questo è interessante, chi c'era poi? Ma hanno tanto speculato sopra, chiunque può vedere che piattini anche nei bar si muovono benissimo. In quel caso avevamo invitato due fantasmi democristiani di valore, perché erano Giorgio Lapira, Don Sturzo, persone di una garanzia democratica. Dunque questa mi sembra una manovra di Berlusconi, che non vuole riconoscere i valori della resistenza, i valori Ho capito. Del cattolicesimo sociale. Premi grazie a tutto. Calma, tranquillità, serenità. Vabbè, ma qui è sangue e merda, professore. Cioè non è che calma e tranquillità, è sangue e merda. No, è un'altra stagione. Questo Cruciani urla troppo. Non mi piace, lo ascoltavo sempre quando, non mi piace quando dice sempre ascoltatori con quella violenza, li attacca. Il paese ha bisogno di altro. Ho parlato con Tamburini, che è il direttore della radio. Sostituiamo con un uomo di Bologna, bravissimo, che si occupa di studi strategici. Uno molto bravo, che ha lavorato a Nomis, ma come conduttore pacato. Basta chicchicococò. Beethoven. Vabbè, Beethoven, anche, mettiamo. Anche Beethoven. Ma che Beethoven? Beethoven, mettiamo Beethoven. Oppure possiamo mettere Vittorio Prodi a condurre, non più la Zanzara, ma lo chiameremo il miele. Il miele, lo chiameremo il miele. Buonasera. Però straordinario è quando dice non ho futuro politico. Ma come non ha futuro politico? Ogni volta si deve ritirare dalla politica, se ne deve andare. Lei per esempio che segno è? Ma che c'entra? Toro. Toro, vedo per il toro quest'anno veramente molto bene. Avrai amore. Avrai, se hai problemi col tuo partner, li risolverai. Grazie. Lavoro 4 palle, denaro 5 palle, avrai il tuo posto di lavoro. Vabbè. E niente tasse per l'amico del cuore. Grazie, presidente. Ma insomma, voglio dire, la vedo molto tranquilla. Ma come fa? Noi siamo sempre sull'orlo della crisi. Il governo sta sempre in crisi. Ma lei non teme per il suo futuro politico? Io non ho alcun futuro politico. Ah, ecco. Io non sono un politico. Io non ho un passato politico. Io non esistevo. Si mi ha inventato D'Alema, mi ha tirato fuori, chissà da dove mi ha preso, io non esisto, io sono morto nel 1974 in un incidente stradale, molto brutto, però non l'ho detto a nessuno. Ma come fa a stare? Oggi ho il 4. Ho capito, ma allora che cos'è veramente lei? Vede, io sono soprattutto un buon democristiano, che sa lottare fra la vita e la morte senza dover offendere né l'una né l'altra. Vabbè, dopo questa grande serata, David, ci sentiamo lunedì. Ma scusa, aspetta che c'è il professore che saluta il pubblico, il professore che saluta il pubblico, aspetta, non è finita. Voglio salutare il pubblico e voglio dire, io sarò sempre con voi a Palazzo Chigi. Ma no, ma non è più Palazzo Chigi. Vabbè, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Calma, tranquillità, serenità. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto finito. Occhio che stiamo degenerando, Radio 24. La passione si sente.